Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, sono le 21, passate da 2 minuti, questa è la vostra emittente, come piacere del sottoscritto preferita, si chiama Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spolaore a tenervi compagnia assieme al mio fedele compagno, ciao Gianluca. Ciao, ciao Agostino. C'è anche il vecchietto, hai visto Gianluca? Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Era uno scherzo, ovviamente. Ma non c'è problema, non esiste, siamo una radio assolutamente democratica, quindi assieme al mio fedele compagno, dicevo, Maurizio Calzavara, a tenervi compagnia anche questo giovedì sera dalle 21 alle 22.30 circa, minuto più, minuto meno. Poi vi ricordo ci sarà la trasmissione con Alberto Prisco e la sua classifica di musica rock, e quindi una trasmissione interamente dedicata a questo tipo di musica. Un saluto anche al nostro direttore artistico. Allora, questa sera chi c'è? C'è un gruppo, si chiamano Wheels of Fire, intanto benvenuti. Grazie. Ciao a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Ma poi abbiamo anche questo collega, ciao Gianluca di nuovo, ciao, collega di... ciao Maurizio a questo punto. Perché... sì, collega, perché con Gianluca abbiamo fatto una piccola porzione della storia del rock qualche settimana fa, certo. Vero? Una piccolissima! Una settimana, diciamo, un mese scorso, sì, qualche settimana fa. Con Gianni Della Cioppa, lo ricordiamo. Ricordiamo Gianni Della Cioppa, che è un grandissimo... no, anche musicista, possiamo dire. Ex musicista. È un redattore del Mucchio Selvaggio, quindi... personaggio di grande valore musicale. Prima di cominciare alcuni dati nostri, ovviamente i nostri numeri telefonici, lo 049 875 6423, se ci volete chiamare qui in studio. Se invece volete mandare un sms, ve lo ricordo, è il 346 23 20 033. Le nostre frequenze sono 38 700, 94 600 MHz in modulazione in frequenza. Vi ricordo il nostro sito www.bluradioveneto.it e le nostre due pagine di Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto oppure Blu Radio Veneto Rock Wave. E ho detto tutto, Maurizio, ci manca qualcosa? No, hai detto, hai fatto la giusta copertina. Ho detto tutto. È giovedì 29 settembre, assolutamente in diretta. E adesso sentiamo chi sono questi amici che sono venuti a trovarci da Varese. Esatto. Dalla città di Varese? No, in realtà siamo un po' sparpagliati. Comunque identifichiamoci nella Lombardia. Ecco. Poi c'è gente di Milano, c'è gente di in provincia di Varese, siamo un po' sparpagliati, insomma, però Lombardi, ecco. Lombardi, dobbiamo sottolineare una cosa, grazie al gancio di Gianluca, stasera siete qua. E questo è importante, perché Gianluca vi conosceva già prima di me, chiaramente. Come mai Gianluca li hai conosciuti in Wheels of Fire? Ma in realtà è stato un suggerimento a sua volta di un'altra persona che mi ha detto: guarda, ci sono questi... Un passaparola meraviglioso che si fa su Facebook, no? E niente, ho ascoltato qualcosa, li abbiamo contattati e ho detto: beh, facciamo un'intervista, dai. Certo. E poi sono venuti, nasce cosa, si è allargata, ha avuto anche un buon riscontro all'estero. Certo, tu hai fatto il tuo programma, li hai intervistati, hai ampliato l'orizzonte e sono arrivati qua. E questa è una cosa molto positiva. No? Certamente. Adesso ci dovete raccontare l'embrione, David, come è nato l'embrione dei Wheels of Fire? 2006 mi pare. È nato, esatto, nel 2006. All'inizio è partito come un progetto solista. Tuo, praticamente. Esatto, infatti il nome era Dave Rocks all'inizio, impostato per il progetto. Poi anche in accordo con la casa discografica, che è tedesca, e Vinyl Allies, abbiamo optato per scegliere un nome che identificasse una band più che un progetto solista. E da lì abbiamo scelto appunto Wheels of Fire come nome della band. Però nasce appunto nel 2006, quando ho iniziato a scrivere alcuni brani, che feci poi ascoltare a Michele Luppi, che ha prodotto il CD, che allora era mio vocal coach. E così gli fece per gli ignoranti spieghiamo vocal coach, vocal coach. Colui il quale ignoranti nel senso positivo del termine, che non sanno praticamente. Esatto. No, sono andato a lezione di canto praticamente da Michele. Così gli feci ascoltare appunto quello che avevo registrato. Lui, insomma, piaceva quello che avevo fatto, e allora mi propose di collaborare a realizzare un CD, un album. E quindi iniziamo appunto ad arrangiare i pezzi. Chiamai poi Stefano, che è qui presente con noi, il chitarrista Stefano Zeni. Gli chiesi se voleva appunto partecipare a questo progetto. Lui accettò con grande entusiasmo. Partirono le registrazioni e finalmente poi nel 2010, a giugno, il 18 giugno, riuscimmo a far uscire questo nostro debut album. Questo quindi un album di esordio. Esordio, esatto. Si chiama Hollywood Rocks. È uscito appunto il 18 giugno in Europa e poi anche a novembre dello stesso anno in Giappone. È una cosa molto positiva. È molto Gianluca. Positiva. Farà sempre il solito mercato. Dove arrivare in Giappone non è mica una cosa da niente. Ma poi là, questo genere di musica, comunque la OR, Melodic Rock. Assolutamente. Sì, diciamo che sono rimasti fedeli a, insomma, a quei famosi anni Ottanta che noi non ci scordiamo. Certo. Effettivamente. È impossibile, credo, quindi, anche scordarci. Esatto. Quindi uscire in Giappone è stata veramente una mossa... che ci ha riempito d'orgoglio, insomma. E Davide, mi puoi anche raccontare, cioè spiegare, citare soprattutto gli altri componenti della band che stasera non ci sono. Esatto, c'è. Allora, il primo a unirsi è stato appunto Stefano Zeni. Noi suonavamo già, e lo conoscevo perché suonavamo assieme in alcune cover band. Mm. Dopodiché l'album è stato registrato da dei ragazzi che attualmente non fanno parte, non fanno della più parte della band. Esatto, anche perché appunto doveva essere un progetto solista, io non avevo in mente neanche una band da portare avanti. Quindi ho chiesto a Roberto Galli di registrare il basso, a Andrea Zingrillo a registrare la batteria, e il tastiere l'avevo fatto da me, a parte il pianoforte che ha registrato Michele Luppi. Quindi poi quando c'è stata l'uscita discografica e dovevamo anche fare dei live, ho trovato gli altri componenti, che sono Fabrizio Cellini alla batteria, Marcello Suzzani al basso e Andrea Vergori alle tastiere. Beh, perfetto. E così chiudiamo il quintetto. Perfetto. Gianluca, che impressione hai avuto quando li hai sentiti per la prima volta? Un musicalmente grande richiamo musicale ai Bon Jovi. Esattamente. Subito Bon Jovi, tac, tac, subito. Esatto. Poi logicamente Bon Jovi cosa vuol dire? Anche un genere musicale. Mm. Quindi mi è venuto subito in mente l'AOR. Sì. Spieghiamo che cosa vuol dire AOR. AOR vuol dire Adult Oriented Rock, ovvero un genere musicale che in America, dalla metà più o meno degli anni 70, più o meno fino alla fine degli anni 80, ma in certo senso anche oggi, mm-hmm. ha spopolato nel continente, certo, americano. Insomma, assolutamente. E non soltanto nel continente americano, è andato un po' fuori qualche sì, volta. Sì, diciamo che per problemi di forse del fatto che molte band non potevano venire in Europa, magari non sono arrivate da noi a suonare, oppure se non sono arrivate solamente nel 2000. Esatto, sì, esatto. Basta pensare ai Journey, certo. Foreigner, secondo me sono inglesi, però gruppi come più famosi, Toto, sono Toto, dire, assolutamente i Toto, sì. Lì possiamo andare avanti, mi vengono in mente i Bad English, i Babies, insomma vari artisti che, ma anche non tanto conosciuti, perché esistono dischi di AOR non tantissimo conosciuti, per esempio il figlio di John Bonham, sì, ha fatto un disco AOR con, certo, il suo gruppo, non è tanto conosciuto, no, però. Cioè, io non l'ho sentito, però ho notato anche questo, l'ho trovato in qualche notizia. Questa notizia che tu mi dai, chiaramente, quindi anche lui si è buttato, anche se i Led Zeppelin fanno una facevano ma lui poi è entrato anche nei Foreigner, è stato, sì, proprio, esatto, nei Foreigner, esatto, quindi insomma, ecco, nel genere musicale lui c'era, insomma, ecco, un genere musicale premiatissimo, quindi dischi d'oro, dischi di platino, possiamo trovare fior di dischi che amiamo tutti, da Toto a, non so, Journey. Sì, beh, i Journey sono ancora in classifica Billboard adesso, grazie al music, quel progetto. Sì, mi dicevi di Glee. Esatto, il progetto Glee, sono ritornati in classifica i Journey. Tra l'altro so che il singolo appunto di Glee, che era Don't Stop Believing, sì, certo, Escape nell'81, gli ha fatto vendere molto di più adesso che all'epoca, cioè è incredibile. Esattamente, esattamente, hai perfettamente un po' come gli U con CSI. Esatto, esatto. Esattamente, i cosiddetti romanzi o presunto tali sceneggiati, così una volta si chiamavano sceneggiati, le nuove produzioni americane rilanciano i gruppi storici. Ma in realtà la cosa incredibile, no, è che se noi torniamo alle origini del rock and roll, Rock Around the Clock, che viene un po' identificata, esatto, come la canzone che ha dato il là al rock and roll per i bianchi, ha avuto il grande, diciamo, il grande successo perché è stata inserita in un film, è vero, Il seme della violenza, certo, Blackboard Jungle in versione americana, certo, è proprio quello il motivo, c'è poco purtroppo da fare. È brutta da dire, ma a volte i film hanno questa, capita sempre, un veicolo molto molto forte praticamente. Agostino, musicalmente a me sono piaciuti subito perché hanno un po' di melodia. Guarda, io ti devo confessare tanta melodia, un po' di melodia. Ti devo confessare proprio, sì, la melodia fusa con il rock chiaramente, con le belle chitarre. Ti devo confessare una cosa, io mi sento spessissimo con Gianluca, noi facciamo lo so, di quelle Gianluca, chat, Facebook, parliamo, è micidiale. Facebook è micidiale, parliamo spesso in chat io e lui, e lui mi fa: guarda che c'ho questo gruppo da farti sentire, cosa ne pensi? E gli ho detto: mandami qualcosa, fammi sentire una canzone. Lui mi ha mandato una canzone che poi magari la sentiremo dal disco, e ha colpito nel segno, e perché gli faccio: proprio questa canzone, so i tuoi gusti, mi fa Gianluca. E mi ha mandato I Can't Live Without You. che è una ballatona, ha colpito nel segno, come sì, tu giustamente che... hai detto, ma proprio nel segno perché beh, insomma, sai che io amo questo tipo di musica e quindi è questo, è un romantico, è così, la ballata è una ballata come un torpedo. Sono una mosca bianca stasera. Non sei una mosca bianca, le ballate fanno parte del panorama musicale, hanno fatto vendere milioni di copie anche il Motley Crue, voglio dire, quindi esatto. Facciamo ascoltare qualcosa innanzitutto per voi, così vi proponiamo subito la vostra musica. Sì, esatto. Facciamo sentire il numero 7 del nostro CD, si chiama The Reason, la canzone. È un pezzo, insomma, che usiamo anche per aprire i nostri concerti, perché dà subito la carica e l'energia giusta. Quindi secondo me è l'ideale per aprire anche questa trasmissione, diciamo. Ok. Radio Sera. Blu Radio Sera. C'è poco da fare, Gianluca, la caratteristica, questo bel muro di chitarre, muro di chitarre serve. Melodia, potenza, certo. ma tutto ovviamente bilanciato, tutto bilanciato prima, no? Riguardo alla musica OR, tanti pensano, no, è musica frivola, è musica melodica, è musica facile. In realtà i musicisti che suonano AOR sono dei signori musicisti. Basti pensare ai Giorni, basti pensare ai Toto. Ai Toto. Se noi scorriamo la carriera musicale di gente come i Giorni, in particolar modo Nishon, troviamo che ha suonato con Santana, ha suonato, voglio dire, nella prima formazione dei Giorni c'era Greg Rowley, anche lui ex tastierista di Santana. Nei Toto non ne parliamo, tu, Steve Lukather. Fratelli Porcaro hanno suonato con tutti. Con tutti, tutti, perché erano richieste, erano session, erano session straordinarie. Qui è gente che ha fatto anche gavetta, voglio dire, tanti 10, anni, 15 anni, voglio dire, appunto, però sono esplosi, giustamente, perché se uno è valido, c'è poco da fare. Insomma, un genere che sembra facile, ma in realtà è difficilissimo, perché devi saper suonare veramente di tutto. Sì, come tu giustamente dicevi a microfono spento, l'hard rock si può suonare, sì, però fare questi giri di blues. Esatto, i giri sono sempre gli stessi. Amplificatore tirati. Ma questi sono un po' giri diversi. David, parlami di questi giri diversi. Va bene. Dai. Allora, citiamo diciamo il nostro manager. Ah, sì, ecco, che ci sta tra l'altro riprendendo col telefonino. Esattamente. È qui con noi anche Richard Temporiti, che è il nostro manager. Esattamente. Tutto fa. Riprenditi. E quindi niente, diciamo che i pezzi di questo CD, appunto, li ho scritti maggior parte io. Mm-hmm. E poi grazie all'aiuto anche di Michele, comunque sia, per chi non lo sapesse, Michele comunque è nel giro da tanti anni, ha già fatto grandi cose, ha collaborato con gente famosa, quindi ne sa tanto, e mi ha dato una grossa mano proprio a esaltare ancora di più, a tirare fuori le cose giuste. Esatto, cose che veramente a volte hanno, non dico ribaltato il pezzo, però quasi, insomma, l'hanno arricchito parecchio. Quindi c'è stata proprio la ricerca, ed è una cosa che stiamo facendo anche adesso con le nuove canzoni che mi ha scritto assieme a Stefano, la ricerca della qualità. Quindi vogliamo essere proprio il meno banali possibile, però ok, stiamo ancorati alla melodia, perché è quella che sappiamo fare, però vogliamo arricchirla di cose, insomma, particolari. Quindi maestri come Toto, eccetera eccetera, ci hanno insegnato tanto, e noi cerchiamo appunto di, mettendoci del nostro, insomma, fare la stessa cosa. E giustamente Gianluca annuiva mentre tu spiegavi, perché è proprio questo la sintesi, l'interesse, la vostra volontà, trovare un giusto connubio di cose. Esatto, proprio nella ricerca anche della, come dicevo prima, della qualità, dei certo. suoni ricercati, perché secondo me fa la differenza. Adesso è molto facile fare dischi, perché la tecnologia ci aiuta, si possono fare in casa, quindi rispetto agli anni 80, 30 anni fa, 20 anni fa, ci sono tante band in più, molte, molte in più. Come fare per riuscire a identificarsi in questo mare di band? Secondo me l'unica strada è quella, cercare appunto di fare qualcosa di diverso, ma come? Visto che, insomma, la melodia alla fine ti porta quasi obbligatoriamente a essere a volte scontati, invece no, se tu trovi dei suoni diversi piuttosto che cose particolari, riesci ad arricchire questa cosa e magari a identificarti appunto in questo mondo che adesso è saturo comunque di band che propongono la certo. propria musica. Gianluca, non so se sei d'accordo, si deve sudare ancora. Certamente. Quello è importante, si deve ancora sudare. Per Vedi che siamo a ottobre, ci sono ancora 30 gradi. Però è questo il concetto, c'è poco a fare. Questo è un messaggio che diamo anche a tutte le band. Certo. Perché tanti ragazzi fanno il demo e credono di magari già subito di arrivare. Ragazzi, certo. state calmi, veramente, questo è un appello che facciamo per radio. Mi raccomando, crescete, andate avanti, cercate di migliorare voi stessi, perché la qualità è quella che poi vi apre anche qualche porta. Bravo. In più. Anche perché poi è un attimo bruciarsi. Certamente, che tanti gruppi magari fanno il disco e dopo alcuni anni si sciolgono, ti resta il disco, ti piange quasi il cuore, che si parla tanto, promuoviamo la musica indipendente, ma se le band sono le prime poi a sciogliersi, a non darsi da fare, cosa possiamo fare noi? Vero. Giusto. Aspettiamo la risposta, ovviamente, magari di SMS. Puntini. Scrivete. Mandateci SMS, scrivete su Facebook e dateci la vostra risposta. Beh, glielo diamo il numero di cellulare, se perché vogliono mandarci qualche SMS. Allora è il 346 23 20 033, siete ben accetti se scrivete qualcosa, appunto, a questi Wheels of Fire. Una domanda, Davide, volevo farti. Questa scelta di cantare in lingua inglese è è forzata, è voluta perché la lingua è più, diciamo, musicale, o è perché ti piace, c'è qualcosa di particolare che ti ha colpito in questa lingua, insomma? No, ti dico, io sono cresciuto ascoltando solo praticamente musica internazionale, di nomi che abbiamo detto prima, sì, eccetera, certo, eccetera, ce ne sono milioni. Quindi mi è venuto proprio naturale andare a finire lì e a cantare in inglese, però ti posso giurare che è molto più facile cantare in inglese che in italiano. Sono d'accordo. Scrivere dei testi belli in italiano è difficile. Due, anche perché è veramente più musicale. Consonanti in italiano le devi dire, certo, in inglese quindi è più facile cantare, soprattutto nei registri alti. Che, certo, certo. Ma tu quando scrivi, le scrivi in italiano e poi le fai la traduzione? No, quando direttamente... le scrivo, cioè la melodia che mi viene in mente la canto dicendo cose a caso. Se c'è un inglese nella mia stanza mi insulta, mi dice: ma che cosa stai dicendo? Alberto Sordi. Esatto, quindi one again. Però, e poi dopo si pensa ovviamente a una storia, a un testo, sì, da metterci. Però quando nascono così, sì. È un sistema, insomma, praticamente, sì, per creare, sì, un, sì, pezzo, sì, sì. E poi cito, se posso, come no, visto che hai detto appunto l'inglese e l'italiano, un'artista italiana che è Elisa, che io stimo tantissimo, che anche lei è nata, cioè uscita cantando in inglese, poi ha fatto qualcosa in italiano, è tornata all'inglese, e gli avevano fatto la stessa domanda, e io nella sua risposta mi identifico, e lei aveva detto che quando canta in inglese è come se fosse su un motoscafo nel mare a 100 all'ora. È anche madrelingua lei, esatto, anche sta fortuna, mannaggia. Quando canta in italiano è un po' come se fosse su un veliero, e quindi è tutto molto più complicato e difficile, ci vuole magari più tecnica, non lo so. È vero, cioè, è così. Hai detto canto? Ho sentito che hai detto canto, vero? Io canto. Canti, sì. Canti. No, facciamo sentire un pezzo, esatto. Cosa canti? Cosa ci cantate? Allora, cantiamo Hollywood Rocks, proprio titolo dell'album, tra l'altro, che ho scritto quando mi trovavo a Hollywood, casualmente. Perché ero su Sunset Boulevard e stavo per svenire, perché c'era il Whiskey a Go Go, c'era il Rainbow, c'era il Roxy, cioè locali che negli anni 80 erano qualcosa di incredibile. Beh, anche negli anni 60, voglio dire. Negli anni 60, ma io non me le ricordo. Beh, solamente per dire Whiskey a Go Go ci hanno suonato i Doors. Esatto. Sì, già un nome, voglio dire, grosso. E sulla facciata di una di queste c'era un posterone enorme con scritto Hollywood Rocks, che era una compilation che facevano uscire. Ho detto: che bel titolo. È mia. Allora ho scritto la canzone, mi ricordo, la sera stessa nell'albergo. E quindi è nata così, insomma. Ok. Pizza. Blu Radio Veneto, Veneto come non l'hai mai sentito. It's 9 p.m., the sun's going down. Electric neon shining all around. Here in the Sunset Street, baby, all that drives me crazy. I close my eyes, my mind goes way back to 20 years ago. We were young and wild, and rap was so far, so far away. But now I'm here and fire is burning in my veins. Hollywood rocks, Hollywood is gonna break my heart. So many years waiting for this time. Just wanna fun tonight. Another chance for you and me. The Roxy is here, red lights on. The rainbow is next. ladies, you know, we could breathe rock and roll. We were so far, so far away. But now I'm here and fire is burning in my veins. Hollywood drops. Hollywood is gonna break my heart. So many years waiting for this time. It's never too late. You know we're never gonna lose our fate. Dreaming about you day after day. Oh, Hollywood drops. Hollywood is gonna break my heart. So many years waiting for this time. It's never too late. You know we're never gonna lose our faith. Yeah, I'll dream. Fino all'ultimo secondo, bravi, bravissimi. Grazie. Gianluca, era giustamente proprio questo era il pezzo per iniziare l'album, era perfetto. Certamente. Era proprio perfetto, tac, da subito l'intro come si deve, c'è poco da fare. Veramente un pezzo perfetto per iniziare l'album. È uno di quei brani che ti resta in testa. E ti resta immediatamente in testa, il ritornello ti prende immediatamente e rimane. Tra l'altro non l'avevo scelto per aprire l'album io. No. Me l'ha suggerito. Michele forse? No, no. Gregor Klee, che è il boss della Avenue of Lies, la nostra etichetta. Questa etichetta praticamente. Quindi insomma, lui tra l'altro, guarda, ho fatto veramente 13 alla schedina, firmando con questa etichetta, perché una persona squisita veramente, che ama il proprio lavoro, soprattutto crede nelle band in cui, con cui collabora, e ha fatto un lavoro anche di promozione che è veramente straordinario, quindi lo ringrazio, lo ringrazierò per sempre, ecco. Benissimo, è un perfetto connubio, Gianluca, melodia e rock e il ritornello che è fondamentale in questi pezzi, il ritornello sono gli ingredienti fondamentali dell'OR. Sì, esattamente, l'OR ha proprio questi ingredienti fondamentali, un ritornello che rimane sempre, che rimane in testa, ma non è ossessivo, è piacevole. Ci sarà perché queste band hanno venduto milioni di dischi. Sì. Ci sarà un motivo, eh. Peccato, è difficile trovare... che siamo nel 2000. È difficile trovare band che facciano proprio questo genere. Esattamente. Poi c'era una recensione che diceva: ma questi sono italiani o sono americani? Ma sono veramente italiani o sono americani? La recensione iniziava così. È bello così, secondo me. Cosa dici? Sì, sì, infatti. Anche Stefano può parlare, chiaramente. Sì, sì, beh, è un gran complimento. Penso che per ogni band, soprattutto nostrana, essere paragonati o essere confusi con una delle band che hanno originato, diciamo, questo genere è un gran complimento, un grande onore. Certamente, non è facile che una band italiana, Gianluca, riesca ad arrivare a questo punto. È un argomento un po' ampio, a meno che, beh, comunque abbiamo un esempio, i Lacuna Coil sono molto conosciuti, sì, in Gran Bretagna. Sono d'accordo, però è un genere leggermente diverso, leggermente secondo me. Sì, sicuramente, però sembra un discorso di come vediamo la musica qui in Italia, no? È come la vedono all'estero, sono molto più aperti, certo. Però devi essere bravo. Sì, devi sapere suonare, c'è poco da fare. Perché là poi trovi anche della gente che ti bastona. Esattamente, esattamente. Io leggo a volte degli articoli, no, che ti dicono ma meglio andare all'estero, l'Italia non ci vuole. Ne sto leggendo e lì faccio sempre... Stiamo attenti, perché là veramente c'è gente che ama la musica, ma soprattutto cresce con la musica. È una cosa molto importante. Che non... Hanno una cultura diversa. Una cultura diversa. Cioè... No, non è che hanno una cultura più completa, nel senso la musica è una cosa da considerare da quando sei un ragazzino fino a quando sei adulto. Esatto. Invece in Italia, sei musicista, allora vuol dire che non... Sì, ma che lavoro fai? Che lavoro fai oppure... Sì, esatto. Allora vuol dire che sei un fannullone, non hai voglia di fare nulla, no? Esatto. Invece all'estero, la cosa sconvolgente che a me è capitata girando in Inghilterra, no? Ero in questo museo a Oxford e eravamo sopra quei famosi double bus, double cab, no? Eravamo su questi vecchi bus in esposizione e c'era mamma, nonno e bambino. Stavano cantando una canzone, tutti insieme, una vecchissima canzone inglese, di quelle insomma popolari, dedicate ai bus. non ce ne fosse stato uno stonato, erano tutti intonati. Ti insegnano la musica da bambino e ti insegnano come ne cantarla. Questo succede anche in America, no? Quando vediamo i film dove ci sono le famiglie che si riuniscono a Natale, che suonano il pianoforte, lo fanno veramente, cioè ci credono. La musica, soprattutto in America, fa parte, anche in Inghilterra, fa parte della cultura delle persone. Ecco, facciamo questa cosa che in Italia, prima di... Vedete, in Finlandia addirittura, dimmi. Voci hanno, ma guarda, Gianluca lo sa di sicuro, Gianluca... ma più in Svezia so che Hanno delle scuole di rock che già i bimbi imparano già rock, ecco, cioè già alle elementari, mm-hmm. capito? C'è noi abbiamo il le bosciati, i capelloni, beh, non sanno fare niente questi qua, non sì, fanno esatto. le musiche italiane, non fanno le cover, esatto. Noi abbiamo Cristina D'Avena, no, ma più che altro noi anche come quello scuole. Però ci vuole anche quello, però insomma, ah, diciamo che ci vuole più diciamo una mentalità più aperta, sì, smetterla prima di tutto con le critiche, prima cosa, no, perché abbiamo fior di anche giornalisti, no, che credono di essere... Se vai all'estero, leggi in una rivista, trovi il musicista a volte che fa le recensioni direttamente. Mi è capitato di acquistare un giornale, Noel Gallagher, che fa un CD compilation allegato, dove lui fa ascoltare in questa compilation dei pezzi anche sconosciuti di qualcosa che gli piace. E puoi trovare dall'artista famoso, quindi Nina Simone, te l'aspetteresti mai che Noel Gallagher ascolta Nina Simone, Buffy St. Marie, e chi lo saprebbe? Io l'ho postato su Facebook e mi hanno detto tanti, in effetti è roba abbastanza sconosciuta. Questo ti fa capire che questo è successo attorno a me. I ragazzi giovani riconoscono Buffy St. Marie secondo te? Persone un po' più Universal Soldier, qualcuno la conosce, che è un pezzo anche di Donovan, che è un pezzo di Donovan che era di Beth San Marie. No, ma su Facebook sembra che ci siano tanti sì. appassionati, poi magari vai nella vita reale e ti senti un po' un alieno. Certo un po', parecchio. Ok, loro sono caldi, hanno già rotto il ghiaccio. Sì, sì, sì, vedo che sono caldi, sono proprio pronti. Ecco, allora sono già pronti. Io credo sia giusto far ascoltare un'altra canzone. Un'altra canzone, okay, dai, ragazzi. Okay. Cosa okay, ci fate ascoltare? Questa si chiama Relax. Show what you got, who you really are. What about your dreams you're keeping inside, along with the love you cannot hide. The world outside is bad and hungry, hungry for people like you and me. The more you give, the more they want. Just don't give up, girl, I'm coming home. There's nothing you can do. Relax, I'm back to you. To say that I love you, to say that I need you too. Remember how we met and all the time we spent waiting for that magic moment. So here we go again, waiting for the rain to wash away. Che bello sto pezzo. Bello, bello, bello. Questo, hanno chitarre irresistibili nel pezzo, ma l'avete sostituito con le chitarre acustiche in modo decisamente indovinato, vero Gianluca? Cosa dici? È venuto fuori bene. È venuto fuori decisamente sì. Bene. Esatto, l'abbiamo messa su 20 minuti fa. Sì, sì, beh, gli ascoltatori non lo sanno, ma io sto imponendo alla band di suonare sempre di più e hanno provato i pezzi qualche minuto se prima di andare in onda. Farlo anche poco tempo, Esattamente, ma questo è lo spirito di Blu Radio Sera, lo spirito del live è così. Si deve, come abbiamo detto io e Gianluca prima, si deve sudare. E questo, esatto, questo è importante. Si deve sudare per suonare. C'è poco da fare. Perché poi si prendono anche delle belle soddisfazioni. Certamente. Ricordiamo anche la Chiara che sta sudando anche lei con le acrobazie per fare le fotografie. Chiara è ritornata anche lei. Ok. Parliamo qualcosa d'altro. Sì, no, io volevo farvi una domanda, una curiosità. Vai. Come vi posizionate? Come siete messi? Come funzionano i vostri live? Come vi preparate, insomma, sul palco? Ma allora, i nostri live sono, penso di parlare per tutti, insomma, ricchi di energia, cioè ci divertiamo, ecco. Quando suoniamo insieme ci divertiamo un sacco e quello è fondamentale. Sì, sì, sì. Il bello è che, siccome questo è appunto il nostro primo CD, io mi ricordo ancora il primo concerto che abbiamo fatto, io ho fatto un sacco di live come cover band. Il primo concerto che ho fatto proponendo roba inedita è stata veramente un'emozione fortissimo. Particolare, esatto. Cioè, e poi c'era anche partecipazione da parte del pubblico. Questo veramente ti dà una forza, una grinta ancora maggiore. Quindi è stato veramente da ricordare il primo concerto. Penso che anche Stefano abbia dei bei ricordi. The Black Horse, The Black Horse. Fantastici, sì, sì, sì. È stato proprio un ottimo esordio. Sì, sì, sì. A proposito dei concerti, quando è il prossimo? Ce l'avete già? Allora, siccome stiamo diamo l'anteprima subito, certo. Ragazzi. Ah, bellissimo. Allora, quest'album qua è uscito nel 2010. Certo. Sì, esatto. Vuol dire che, ragazzi, è ora di farne un altro. Quindi io e Stefano abbiamo già scritto nuovi pezzi. Il 2 gennaio prossimo partirà la registrazione di questo nuovo album. Quindi partiremo con le batterie, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Questi tre mesi che vengono adesso li dedichiamo proprio a provare insieme i pezzi che andranno sul disco, per trovare comunque il groove tutti insieme, per arrivare a registrare. Ho capito. Che siamo delle macchine. Fate come qualche volta capita, non so se Gianluca è d'accordo anche Gianluca su questa. Cioè fate già i pezzi nuovi suonando assieme ai pezzi vecchi, succede così oppure no? Li provate suonando dal vivo direttamente? Qualche volta capita, spesso band fanno così, li provano direttamente dal vivo. Vedere che effetto ha nel pubblico. So se Luca se sei d'accordo su questo. Certamente, è una cosa che dovrebbe essere così. Qualcuno lo fa anche giusto per far imparare alla gente già il pezzo, perché è una cosa, un difetto secondo me che hanno molte band, no? Suonano il loro pezzo a posto e la gente deve anche impararle, voglio dire, le canzoni sue, anche riff, dopo, sì. Perché dopo è automatico, dice: ma sono belle le vostre canzoni, ma l'avete fatto un CD? Ho capito. Studiamolo anche questa cosa. È una cosa. Non so se siete, cioè, il discorso di far sentire i pezzi nuovi è un, secondo me è un discorso interessante. Il riff la gente lo deve poi capire, lo deve assimilare. Sì, alla sì. Volta. Il refrain, infatti, il ritornello. È il ritornello. In programma ci saranno sicuramente degli showcase dove proprio presenteremo ancora prima dell'uscita il nostro nuovo album. Adesso è prematuro, un po' prematuro, chiaramente. Prematuro. Probabilmente uscirà in primavera, quindi è un po' troppo prematuro. Poi dobbiamo ancora depositarli. Ah, quello è importante ed è molto interessante questo discorso. Maurizio, hanno detto che vengono qui a presentarlo, vero? Sì, sì, ho sentito bene. Sì. Sì, sì, sì. Mi sembra di sì. Abbiamo già appurato, abbiamo detto 21:40, sono il 29 settembre e d'improvviso lei non c'entra, però è 29 settembre oggi. Grande vero. Lucio ci sente dall'alto. Sì, esatto. Allora, caldi sono caldi, abbiamo detto e... A proposito di live, loro devono anche raccontare l'esperienza dell'Edison Chain Music Contest. Ah, sì. Qui erano in lizza con altre band per aprire il concerto di Bon Jovi. Cosa è successo? Ah, è vero. Forse. Abbiamo un minuto a testa da raccontare. Sì, a me tra l'altro Bon Jovi non piace neanche tanto. Eri scocciato, di' la verità. Sì, no? Sì, infatti. È stata veramente una bellissima esperienza perché comunque essere scelti tra le 5 band finaliste su... Eravamo tantissimi, 500 dice Richard. È stato veramente comunque un bel risultato. Poi non ce l'abbiamo fatta e peccato perché sarebbe stato veramente la data della vita per me e per tutti quanti comunque sia. Però ci ha dato un qualcosa di importante, perché a parte che abbiamo suonato a Vigevano su un palco che era, io non sono mai stato su un palco così enorme. Era enorme, con dei professionisti che, come fonici, quindi cavolo, però hanno vinto degli altri. Su quello stesso palco io comunque a Udine sono andato comunque. Gio Bonamassa ha suonato, c'è gente grandissimo, Jeff Beck aveva suonato anche in quello stesso paio, esatto, organizzato la Barley Arts, quindi insomma, esatto. quindi no, c'era Radio Trotta, era esattamente un organizzatore di tutto. scusate. C'è l'inchino, è un organizzatore. Ma poi, ragazzi, poi avuto modo di conoscerlo Bon Jovi oppure no? Io ho provato a scrivere, ma niente, no, non ce l'ho fatta. Io sono andato a Udine comunque a vedere il concerto, che è stata una roba incredibile. Io ne ho visti di concerti di Bon Jovi, quello rimarrà bellissimo nelle mie memorie, perché è durato quasi 3 ore. Vabbè, cavolo, c'è stata una scenografia alla Springsteen praticamente. Sì, sì, e poi non si è tirato indietro, hanno suonato tutti benissimo, anche Richie Sambora, che veniva da un periodo un po' così per problemi di salute, hanno suonato benissimo, alla grande, e tanto, cioè 2 ore e 45, una roba allucinante. È stata preparata una coreografia dai fans che sono rimasti a bocca aperta anche loro, e quindi è stato bellissimo. E vabbè, la prossima volta lo vedrò da un'altra prospettiva. Speriamo proprio di sì. Esattamente. Cosa volete fare adesso? Suonare dal vivo o volete fare un po' di break con qualcosa dal disco? Facciamo un pezzo dal disco? Disco? Sì. No, ditemi voi. Sì, sì, facciamo sentire un pezzo dal disco, così è un pezzo rock. E dopo, quando rientriamo, facciamo una bella ballatina così. Ah, ok. E poi ci ascoltiamo un'altra ballatona. Esatto. Il prossimo pezzo si chiama Everywhere I Go. Ok. Sitting on the floor, I don't wanna go home, not now, baby. The party's just begun, give me another shot, put it right here. Music's playing loud, people scream and shout. No way, no whiskey can get you out of my heart. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 21:47, questa è la voce di Agostino Spallore che assieme a Maurizio Calzavara stiamo cercando di scoprire Wheels of Fire, cioè questa band che ci arriva dalla Lombardia, diciamo così. Assieme a noi c'è comunque anche Gianluca Merlin che ci sta dando la mano, lui che poi tra l'altro aveva già sentiti, già conosciuti. E qui abbiamo, diciamo, un due quinti della band, abbiamo Davide Barbieri e Stefano Zeni. Esatto. Esattamente. Come possiamo giudicare questo pezzo, Gianluca? Qualcuno ha scritto qualche critico leggermente hard rock. Cosa dite? Siete d'accordo? Beh, sì, anche perché c'è una seconda strofa un po' più tirata esattamente. Doppia cassa, un po' più metal, diciamo. Un po' più metal, dai. Esatto. Doppia cassa. Bello dire doppia cassa. Doppia cassa. Spiegate, io lo so, ma spiegate ai nostri ascoltatori cosa vuol dire doppia cassa. Allora, la cassa è, ho detto anche kick, è appunto una della, o gran cassa, un gran cassa della batteria, esattamente. È portata, raddoppiata a livello proprio di tempo, quindi un incedere un po' più metal, appunto, come, piuttosto, diciamo, che un classico 4 quarti. Certo. Salutiamo anche il batterista allora per questo, Esatto. Che ha fatto un bel lavoro, un ottimo lavoro. Ma è l'ottimo, è tutto il gruppo, la band, il gruppo assieme, vero Gianluca? È un ottimo lavoro, non è? Si prende il solista uno, no è un insieme della band. Devi saper, voglio dire, suonare bene, voglio dire, certo. Dischi, questo Everywhere I Go, in particolar modo quando devo scegliere un singolo o qualcosa, punto sempre su Everywhere I Go, perché secondo me è un singolo, assolutamente è un singolo. E poi che solo c'è, ragazzi, che solo di chitarra sì, è vero, dico solo metal, certo. Noi abbiamo soprannominato il Rondò, il Rondò, perché c'è un incedere un po' veneziano, un po' così, visto che siamo qua da queste parti praticamente queste parti. No, poi in realtà quando si parla di assoli tecnici parlavamo ad agosto, no? E si parlava di Ingvar Malmsteen, che è uno che ha fatto ricerche sulla musica classica, no? Lui nasce come violinista, appunto. Questo per dirti, no, proprio che a volte nel rock si inseriscono elementi che provengono da altri tipi di musiche. Assolutamente. Ma lì è stato geniale, infatti. Sì. E una cosa volevo chiedervi, ragazzi: la scaletta è stata scelta a caso, è stata scelta volutamente in questa sequenza? Ma quella di stasera? Dici? No, non quella di stasera. La scaletta del disco. Del disco. Come dicevo prima, io ho fatto tutt'altra scaletta. Ah, perfetto. E poi mi è stata bocciata dal discografico che me l'ha rimandata. Ma te l'ha bocciata, cioè ti ha dato dei piccoli aggiustamenti. Esatto, ma ci ha visto lungo comunque, come, certo, come che abbiamo detto anche voi, che visto... Hollywood Rocks era un pezzo su un'apertura puntare, perfetta. Esatto. Quindi gli ho dato ragione. Ma cosa intendi discografico? Che cioè, hai già parlato della promozione del discografico, ma cosa vuol dire promozione in questo senso? Che mano ti ha dato praticamente? Vuol dire far girare, diciamo, il nome a livello sia di in internet, quindi con i vari recensioni, siti, insomma, recensioni. Quindi divulgare i promo a Webzine, piuttosto che alle radio, eccetera, eccetera, in modo tale appunto che venissero ascoltati e recensiti e che cominciasse a girare il nome. E poi a livello di distribuzione comunque abbiamo occupato tutta l'Europa, che insomma è importantissimo, e poi siamo usciti anche in Giappone, quindi sì. Siamo riusciti ad allargare di tantissimo gli orizzonti. Tra l'altro siamo usciti anche con un'intervista e con una recensione 88 su 100 che su Burn, che Burn è un'icona è la Zain, il giornale di riferimento, diciamo, del, come un po' il nostro Rolling Stone, ecco, diciamo, no? Gianluca mi guarda perplesso. Gianluca non dice, quando sento parlare di Rolling Stone metto le mani avanti. Okay, vabbè. È più, ormai è diventato quasi un giornale scandalistico più che un giornale musicale. Sì, in effetti. Cosa intendi in generale? Intendi? Ah, diciamo che si parla più di glam, di moda, che non fa di musica. È diventato panorama. Non c'è neanche tanta pubblicità, poi, se guardi e se sfogli. No, non tantissimo. Panorama. È pieno di pubblicità, praticamente. cioè, come dire. Però in ogni caso quel giornale di riferimento ha dato un là notevole, ha sì, sviluppato, ha sì. allargato decisamente. Ma quindi questo Burn è una rivista di giapponese? Sì, ma guarda che se la vedi dici, ah è quella che ho scritto con due R, Burn, col punto esclamativo. Quindi sicuramente avete avuto un pubblico, diciamo, giapponese che vi ha letto, capito? Sì, insomma. Sì, infatti abbiamo venduto tanto anche là. Bene, bene, quindi... una cosa positiva. Precisamente. A proposito di vendite, diamo i vostri dati se qualcuno vi vuole contattare, siti dove può acquistare il disco e via discorrendo. Allora, noi siamo presenti, diciamo, su tutti i social network, quindi Facebook ci trovate, su MySpace, abbiamo un canale YouTube, abbiamo un sito ufficiale che verrà tra poco rifatto, rivisitato anche per lanciare il nuovo disco, che è www.wheels-off-fire.com, e lì trovate anche il link del nostro store ufficiale dove potete acquistare il nostro CD, in futuro anche merchandising eccetera eccetera. Avete intenzione di fare anche quelle cose lì? Sì sì sì, perché comunque magliette, cappellini sono belle. Poi c'è gente che le compra ai concerti, ne abbiamo qua un Gianluca che ne mostra una degli Who. Fiero, fiero. Comprata l'Hard Rock Café di Londra, esatto. E mi hai mandato la foto anche, oltretutto, esatto. Taggato sulla sì, la, grazie, l'Hard Rock Café, immortalato. Ti ringrazio, gentilissimo. Potevi portare a casa una maglietta anche per me, no? Ma costa, non è un problema. Vabbè, poi scusami, ti ho interrotto, Davide. Altri... E poi siamo presenti anche su, diciamo, l'ambito nel digitale, quindi iTunes, CD Baby, tutte quelle, e anche, quelle cose. E anche ovviamente nei concerti, se eventualmente. Ah, beh, sì, sì, sì, ovviamente i concerti trovate eventualmente fisicamente il disco. Esatto, esatto. E potremmo anche firmarvelo. Ah, certo. Perché no? C'è l'aggiunta. Perché no? La copertina, il valore aggiunto. Chi l'ha fatta la copertina? La copertina l'ha fatta un collaboratore dell'etichetta. Esatto, è un ragazzo francese. Noi gli abbiamo dato un'idea, Hollywood Rocks, quindi Hollywood, la scritta Hollywood famosissima con l'aggiunta di Rocks, quindi sulle colline californiane, e pensavamo appunto a Wheels of Fire, quindi a una macchina appunto che va talmente veloce che insomma le ruote bruciano. È anche una terminologia americana, Wheels of Fire, che viene utilizzata, mi sembra, anche nei Dragster. Sì, non so se sì. voi avete mai visto quando in The Song Remains the Same c'è John Bonham che parte con i Dragster, sotto a questa pozza di petrolio danno fuoco, parte e le ruote vanno in fiamme per due minuti, insomma, ecco. Tra l'altro una chicca che vorrei, dimmi, che magari non tutti vedono, nella copertina c'è l'insegna che è quella del Roxy, di un club famosissimo sì, nel Sunset. Ha suonato i Guns N' Roses, sì, Motley Crue, insomma tutto il... E con la stessa carattere c'è la scritta Dave Rocks, che insomma è un omaggio a quello che doveva essere l'origine del progetto. Il mio discografico me l'ha messa lì e mi ha fatto piacere. Dubbiamente. Adesso ci ascoltiamo qualcosa dal vivo, però, questa ballata. Ci ascoltiamo, esatto, una ballata, si chiama Little Prayer. Little Prayer, che... Che è la piccola preghiera. Ah, la piccola preghiera. Ok. Esatto. Day by day, we live our lives. Don't raise our heads, here it comes the night. And then a new day is about to come. We're growing older and our children are strong. My life is more than this, I want you to know. It will be enough to have a break sometimes. All we have to do is live for today. Life can be too short, don't throw it away. Everyone has a destiny. Everybody has to follow their dreams. Trying to run with no place to to be. And take a look inside yourself, I do the same. Whoa, for those who gave their lives and many stories, for those who fought to give us what we need. On my knees I'll pray for you tonight. Give me faith so I can chase my dreams. I know there's an angel in the sky that shows me the way to face my life. Way up there, somewhere in the clouds, I'll do the best I can to make you proud. Hold me tight, give me the strength to carry on. Every time I seem to lose my way back home, just give me hope and I won't let you down no to give us what we need. On my knees I pray for you tonight. Just give me faith so I can chase my dreams. I know there's an angel in the sky that shows me the way to face my life. Way up there, yeah, I'll do my best just to make you proud. Beh, ditemi quello che bravissimi, volete. Bravissimi, bravissimi. Veramente, veramente. Questa è l'acoustic verso, un'altra acoustic verso fatta appositamente per noi. Allora. Tra l'altro l'abbiamo fatta anche appositamente per il Giappone. Perché ah, perfetto. Sapete che i giapponesi sono esigenti, molto quindi esigenti. Vogliono bonus track. Vero. Noi gliele abbiamo date due. Ottimo. Quindi una si chiama Scream and Shout, che è un pezzo rock. Certo. E questa, Little Prayer, versione acustica. Ok, bellissima. Bellissima, fatta, veramente bellissima. Bella. Grazie. Grazie mille. Allora, noi di solito quando facciamo queste interviste abbiamo consuetudine chiedere i gusti, insomma, musicali degli artisti che vengono qui. La domanda è sempre quella, non siamo monotoni, la ripetiamo. Se andate in un'isola deserta e vi portate tre dischi, cosa vi portate? Allora, non si può copiare, questa è la regola ferrea del programma, non si può copiare. Una testa. No, tre. Una testa. Tre a testa. Beh, fate a ping pong. Sponda, esatto. A ping pong, ok. Buongiorno. Slippery when wet. Io mi porterei Queen, Innuendo. Ecco, fermiamoci un momento. Gianluca, perché secondo te hai scelto Stefano Innuendo dei Queen, che è l'ultimo disco dei Queen? Forse perché è un disco creativo. No, dimmi. Io sono rimasto molto molto colpito da Innuendo proprio come canzone. Secondo il mio punto di vista è una canzone estremamente geniale. Mi piace molto poi l'intermezzo con la chitarra spagnoleggiante, che so che non è stato Brian May a suonare, ma è stato Brian May con Steve Howe degli Yes. Ah, ok, ecco. Lui sa tutto. Grande Gianluca. Gianluca sa tutto. Gli ha fatto l'assist. Ma io lo sapevo che Gianluca lo sapeva. Un libro dei Queen. L'ho letto. Adoro come loro componevano in generale le canzoni. secondo me è un album che io non potrei farne a meno. Ok, innuendo. Tocca a te, David. Europe, out of this world. Tocchiamo Europe. Qualche critico, Gianluca mi conferma, ha scritto: i vostri cori in qualche momento assomigliano a quelli di Europe. È una bella cosa, secondo voi? Certo. Sì. Mm. A me, vabbè, allora, siccome io sono del 78, quindi gli anni 80 sono quelli che insomma, ho ascoltato, appunto, Bon Jovi, gli Europe. Certo. Oh. Eccola. Accendino, vai. Adesso fanno gli iPhone, non vanno più gli accendini. Siamo in tema di ballate. Sono un po' più vecchio, per cui vado ancora con gli accendini. Bene. E quindi, insomma, Davide, gli Europe... Li ho presi proprio come esempio da seguire. A me la voce sua di Joey Tempest mi piaceva tantissimo. Certo. E quell'album lì che ho detto, che è quello successivo a The Final Countdown, cioè che sì, è il certo grande successo planetario. Secondo me il secondo, Out of This World, è ancora più bello di quello lì. Però per assurdo è stato criticato. Sì, l'etichetta tra l'altro non era contenta, eccetera eccetera. In realtà ci sono delle voci registrate da Ron Nevison, che è produttore di quegli anni, che ha fatto cantare bene anche Paul Stanley, per dire, di un ha lavorato con Led Zeppelin, cioè, è un dio, fa di quelle voci incredibili, e su quel disco è proprio per me una bibbia da leggere, perché voci incredibili, chitarre incredibili, tastiere, c'è tutto quello che la OR vuole. Certo, quindi, certo, insomma, quindi giustamente hanno citato gli Europe, Gianluca. Amo gli Europe perché da bambino è stato il primo gruppo rock duro dopo tanti anni di techno pop che ho ascoltato, per cui sono stati il mio accendino che mi ha fatto ripartire in ambito rock, per cui amore assoluto, ero ragazzino delle elementari, per cui anche tante ragazze piacevano. Mi ricordo un tema di una mia amica, il mio gruppo preferito è svedese, si chiamano Europe. Pensate che popolarità all'epoca, ricordo, in Italia esplosero. Incredibile, aveva una popolarità incredibile. Non so, io ho letto da qualche parte. E sono ancora bravi. Esatto, sono sono molto più bravi di una volta. Hanno ancora un pubblico molto forte, ancora che li segue. Io ho parlato con un amico che ha fatto il road, diciamo, lo stage, ha lavorato, diciamo, a Bolzano per il concerto degli Europe, e mi ha detto che sono assolutamente alla mano. Sono andati a mangiare con loro, vieni qua, parlavano così, e si è fatto foto con Joey Tempest, si è fatto sopra la batteria del batterista di fronte agli amplificatori del chitarrista, per cui ha detto grande concerto, ragazzi, gente che è venuta, entusiasmo alle stelle, e loro professionalissimi alla fine del concerto, valigettine, via. Perfetto. L'unica cosa che a me non mi piace tanto delle ultime loro uscite è il fatto che la tastiera è stata messa non in secondo piano, ma in terzo, in quarto. Sì, questo è vero. Vabbè, peccato, però fa niente, per il resto sono veramente professionisti. L'altro rimbalzo tocca a te, Stefano. Io mi porto, è un po' fuori genere, io mi porto il Black Album dei Metallica. Un po' fuori genere, ragazzi, un po' fuori genere. Un album storico, il Black Album dei Metallica. Anche a me che non piace quel genere, io l'ho comprato. Senti, se andiamo sull'isola assieme, così mi presti qualcosa. Sì, è un grande album che periodo torna in tutte le classifiche mondiali, Italia compresa, è un grande album. Grande. Sicuramente. Poi, con l'orchestra sinfonica. Ecco l'orchestra sinfonica. L'orchestra sinfonica. Sai com'è? Ecco quando cominci a parlare su Facebook con delle persone, no? Poi ti dicono. Ecco, una brutta abitudine degli italiani, no? Quello di dire: ma per me questo gruppo è morto nel tal disco. No, e ci sono tanti, ma i Metallica a me piacciono da Killer Moll fin quando c'era Cliff Burton. Quando è morto Cliff Burton, i Metallica sono morti. Però senza Black Album nessuno in Italia avrebbe scoperto i Metallica. Sono d'accordo con te. Esatto. Questo bisogna dire. Poi qualcuno può piacere il loro periodo trash, qualcuno vuole certo, può dire che l'Odd non gli piace, però Black Album è un disco classico. Certo, è classico in tutti i sensi, proprio classico. Anche chi non ama il genere, ripeto, il sottoscritto, però Black Album ce l'ho nella discoteca, vuol dire che mi ha fatto muovere determinate cose. Che le canzoni piacciono, perché poi sono le canzoni che fanno la vendita del disco. E prodotto da Bob Rock. Esatto, prodotto da lui, sì. Che poi hanno avuto anche dei contrasti. Sì, però insomma il risultato è stato straordinario. Tocca a te, Davide. Io avrei un pari merito. Cosa faccio? Ne dico uno? Vabbè. Non nascondi nei calzoni, l'altro mostri. Allora, le dico tutte e due. Dai, spara. Le dico tutte e due. Semmai li metto insieme. Allora, sono i Mr. Big, Lean Into It. Ah, i Mr. Big hai citato. Agostino, i te l'ho rubato. Anni, Mr. Big. Beh, i tuoi anni. Io ti spiace. Anche te, chiaramente. Sì. Non profondamente, ma però, insomma i Mr. Big. E assieme porterei anche Winger, che no, non c'è, se non me ne so. Te li ho fatti conoscere io. L'album Pool, che è del 93, anche questo è stato sottovalutato, anche perché c'era un periodo insomma dove usciva il grunge, quindi insomma sono morti tanti gruppi. Nirvana praticamente. Esatto, quindi. Però quell'album lì era avanti, ma avantissimo, ed è spettacolare. Ho capito. E tu? E lo Stefanino si porta a Wake. Dream Theater. Ah, ecco, ecco. Cosa dici di... Chi è il più metallaro tra me e lui? Gianluca, di questa scelta di... Stefano sicuramente. Stefano sicuramente ha scelto un disco decisamente metallaro. Ma metallaro, un disco potente, un disco dei... Un disco e basta, c'è poco da fare. Le differenze, cioè... Descrivo un disco come questo che ha citato Stefano, è un po' difficile, non hanno genere secondo me. Dream Theater, secondo me no, sono amatissimi, sono tutti amatissimi, dischi, amatissimi, esatto. Anche recentemente, sai che sono appena usciti con un nuovo disco, un nuovo batterista, no? Mike Mangini, batterista di Steve Vai, Rullate al minuto. Che il secondo è un italiano. È un ragazzo di Badia Polesine che suona in una band, suona con Michele Lupi. Suonava comunque, no? Qui è arrivato secondo. L'enciclopedia è Gianluca e sta venendo fuori. Sì, da quello che mi dicono notizie, Mike Mangini ha portato più tranquillità nei Dream Theater, perché Mike Portnoy dicevano se la tirava. Qualche notizia girata che pare abbia fatto causa ai Dream Theater, e questa notizia recente. Ma sono tantissimi anche in Italia. Ma sono venuti a Villafranca, certo, a suonare. Sì, sì, sì. E c'è stata ovazione assoluta per Mike Mangini, nuovo entrato. Ecco, vedi, Agostino ha scelto un pezzo di Dream Theater che c'hai dietro sullo schermo. Si vede. Questo pezzo è meraviglioso. Questo pezzo è fantastico. Ok, penso che abbiamo finito il ping pong. Sì, adesso ci ascoltiamo. Però tre dischi sono pochi. Lo so, ma dobbiamo suonare, ragazzi. Quello è importante. Dobbiamo suonare. Io direi di far ascoltare, per far loro riposare un attimino. Facciamo riposare disco, un pezzo, dai. E poi concludiamo con un grande. Ma questa vogliamo dedicarla a Agostino. Grazie. Proprio è spontanea la cosa. Beh, sì, neanche fosse. Questa, confesso, mi piace moltissimo, veramente. Credo, adesso io parlo per i miei gusti, ovviamente, ma per me è la canzone più bella del disco. Poi, ovviamente, ognuno ha il suo. Ma mi fa piacere, tantissimo. A me, ti dico, quando Gianluca mi ha presentato, mi ha dato questa canzone, mi diceva: guarda che questo sono un gruppo che potresti fare anche tu nella tua trasmissione. Io, cavolo, lo faccio subito. Perché veramente è molto bella. Comunque ti ho interrotto, Davide. No, niente, è una ballata. Si chiama I Can't Live Without You. Ok. I could try to go. I can't. Blu Radio Sera. Languidissima, bellissima, dolcissima. Beh, Michele Lupi suona bene il piano, bisogna dirlo, che è molto bravo. Infatti, infatti. E tra l'altro, in questa canzone, come in Little Prayer e in Loveness, che chiude il CD, il pianoforte è stato registrato proprio acustico, vero? Ah, proprio vero, praticamente, non è stato campionato praticamente. Sì, non si sono usati plugin che emulano pianoforti. Siamo andati proprio a casa di Michele, lui ha un fantastico piano a coda e l'abbiamo microfonato e registrato. Quindi io avevo fatto i demo su invece una roba finta, quando abbiamo registrato quella è stato come vedere la luce, proprio si è, cioè il pezzo di, i tre pezzi sono diventati un'altra cosa, cioè incredibile. Quindi tra l'altro volevo anche ricordare che per le riprese appunto di pianoforte, ma che ha curato il mixaggio e il master, volevo ricordare appunto Roberto Priori, che insomma ha fatto un lavoro importantissimo e tra l'altro lavorerà con noi, collaborerà con noi anche nel prossimo CD. Visto che tu scrivi le canzoni, Davide, ho letto sul disco, e questa canzone com'è nata? C'è qualcosa di intimo? Diciamo sì, nel senso che per quanto riguarda il testo, grazie, diciamo, grazie purtroppo per lui, un amico che aveva una situazione sentimentale che insomma non era delle migliori, allora diciamo che l'ho scritta per lui, quindi insomma il tentativo di riconquistare una donna, una ragazza. Quindi tu per scrivere le canzoni ti affidi sempre comunque a un qualcosa che può capitare all'interno della tua sfera? Sì, diciamo che i testi si basano su proprio esperienze tue o in prima vicino. Persona o di amici o di... esatto. Certo. E niente, invece la canzone in sé l'ho composta proprio nel mio studio di botto, poi vabbè, grazie a Michele eccetera eccetera l'abbiamo elaborato un po' e via. Beh, certo che quando avrà sentito questa canzone il tuo amico si sarà commosso, penso. Sì, quasi, quasi. Ma di solito Dave. La scrematura del pezzo, come fai qualche accordo all'inizio con la chitarra e poi sviluppi con Michele, con gli altri tuoi colleghi? Allora, praticamente, vabbè, per questi qua l'idea nasce, siccome io non sono chitarrista, anche se adesso sto diventando veramente bravo. Scherzo. ma lo sto educando io. In realtà nasco come tastierista, come è stato scritto su una rivista che non mi ricordo più qual era, su una recensione c'è scritto che io nasco come tastierista a Los Angeles. Boh, io non so come è uscita questa cosa. Vabbè. Poi sei venuto qua. Comunque è vero, io ho iniziato a suonare a 7 anni al tastiere praticamente. Esatto, imparando pianoforte, quindi io è lì che creo le canzoni. Col nuovo album ho collaborato a contatto con Stefano. Con Stefano. Quindi lui mi proponeva dei riff piuttosto che io ancora qualcosa col pianoforte. Poi ci troviamo nel mio studio, mettiamo su una bella drum machine che ci dà un po' di sostegno e nascono e creiamo i pezzi. Sì, ma solo all'inizio, Gianluca, poi ci sta sicuramente. Solo all'inizio poi cambia il discorso. Sì, non possiamo non permetterci un batterista con noi sempre. Certo. Però sempre il solito discorso di qualità, diciamo, sì, no? Qualità, però dal vivo il batterista no, ve lo permettete qualche volta. Ah sì, ma anche il disco lo registreremo. Anche nel disco, chiaramente la drum machine non esiste, nel disco c'è un batterista che suona, questo è importante, esatto. Fondamentale. Io direi di fare ascoltare una canzone adesso dal vivo. Certo, e poi certo. Torniamo in studio e ci salutiamo magari con l'ultima canzone. Cosa ci fate ascoltare adesso? Questa si chiama What I Want. Ok. I was just 18 when you came into my life. and time seems to stop when I look in your eyes. Still growing up together, facing all the odds, but you can make me strong with just a smile. I'd do anything to keep you satisfied, and every day it will be alright. I walk beside you and make your dreams come true. That's what I do for you, and I like to have you by my side. I wanna keep you warm at night. That's what I like, baby, that's what I want. And I like to tell you how much I love you. I could give you everything you need to carry on. Baby, that's what I want. That's what I want. That's what I need. That's my heart you're holding in your hand. I'm sure that you will be there when I'm sad. We'll fight against the sorrow, and we'll defeat the pain. Remember, sun will shine after the rain. For you, that's what I do for you. And I'd like to have you by my side. I wanna keep you warm at night. That's what I like, baby, that's what I want. And I'd like to tell you how much I love you. I could give you everything you need to carry on. Baby, that's what I want. That's what I want. And that's what I want. That's what I want. That's what I want. Bravi, veramente bravi. Siete... Bella perché è proprio stringata, Gianluca. Hai sentito? Stringata, potente, ma allo stesso tempo melodica. Questo è importante. Un critico ha scritto: si può cantare a squarciagola questo pezzo. Esatto, guarda, secondo me la, la differenza, insomma, non lo so. Però una ricetta importante, almeno per come la vedo io, è quella che per questo album io ho trattato ogni canzone, ogni singola canzone, come se fosse il singolo. Chiaro. Cioè, la vedevo in quell'ottica lì, no? Certo. E quindi la ricerca di questi ritornelli che possono comunque rimanere in testa, che sfociano nella melodia, e, secondo me, insomma, è importante. Eh sì, perché non è facile, Gianluca, trovare dei ritornelli che rimangono in testa, è difficile. E poi al giorno d'oggi. Al giorno d'oggi, soprattutto al giorno d'oggi. Ma sto facendo magari un'altra canzone che è già stata. Esatto. Già stare attenti. Se posso pensare un'arancia a favore di Davidino. E voglio dire che lui, secondo me, è il mago delle melodie, è il mago dei ritornelli. Cioè, lui è proprio, ha un modo di creare le linee melodiche sui ritornelli. Ha proprio questa abilità di farteli cantare in testa sin dall'inizio. E secondo me è una cosa. Ma io lo chiamo il magic touch di Davidino. Quando lui compone, mi manda i sample, io rimango sempre sbalordito dalle sue soluzioni melodiche. Secondo me è geniale in questo senso. Probabilmente ha anche qualcosa da dire. Sicuramente qualcosa da dire. Sicuramente, sì. Questo è importante anche nel prosieguo, nella composizione delle canzoni. Certo. Sì, esatto. Ricapitoliamo i vostri dati. Allora, Davide Barbieri è nato. Non era questo. No. Non è così, però. Può anche allora, essere. Il nostro sito www.wheels-off-fire.com www.dacam.com, il nostro sito ufficiale verrà comunque rifatto a breve. Poi abbiamo i nostri social network, quindi Facebook, basta che scriviate Wheels of Fire, lo trovate. Poi abbiamo MySpace, myspace.com/WheelsOfFireTheBand. Abbiamo il nostro canale YouTube, Twitterino, Twitter, tutti, cosa manca? Ricky, parla pure qua. Ricky, al microfono, Richard, vai. Roadrunner. Ah, Roadrunner. Roadrunner, la famosa discografica americana. Sì, lì diciamo che siamo all'interno di un, come dire, di altre band che propongono la propria musica. Il bello è che la gente iscritta al sito può ascoltarle e esprimere, esatto, il proprio parere, quindi è un modo per, insomma, farsi, esatto, conoscere anche. E visto che la cultura americana è un po' diversa dalla nostra, questa cosa funziona. Lo sappiamo. Funziona e ci accorgiamo di avere intorno tanti grandi musicisti che non sono noti al grande pubblico, come per esempio Wheels of Fire. Sto scherzando. E, vabbè, ben venga, cioè. Sì, sì. Ma internet aiuta tantissimo ormai a giorni nostri. Da un lato no, da un lato sì. Vabbè, come qualsiasi cosa, ci sono le cose buone e cose non buone. È sempre la doppia faccia della medaglia. Però se vi aiuta per farvi conoscere. Per farsi conoscere è micidiale. In Giappone o anche in altri stati del mondo, insomma. Arrivi subito. Parlavamo proprio con Maurizio, oltre a voi sono venute anche molte altre band nei nostri programmi radiofonici, no? E tra queste c'è stato un gruppo romano, gli Saint Lips, esatto. E loro mi hanno detto che tramite l'ufficio stampa americano, che è lo stesso ufficio stampa dei REM, grazie tante, scusami, loro sono stati programmati in qualcosa come 139 college radio americane. Vero. Al che adesso la No More Fake Labels, l'etichetta che distribuisce il loro disco in America, ha organizzato per loro 3 date a New York. Quindi loro partiranno da Roma, andranno a New York, fantastico, a fare degli showcase nella Grande Mela. Poi avevano un pezzo bellissimo che è andato in onda, che era straordinario, che è andato in onda continuamente, Nicola, cioè, quella è una cosa molto positiva. Cavolo. Io vi porto i saluti di Daniela, e mi scrive, dice: ciao Agostino, mi chiedevo se potevi dedicare una canzone a tutte le donne che combattono ogni giorno la loro lotta contro il tumore, anche a me. Grazie, ciao a tutti. E Daniela si firma, se volete dedicargli alla ma voi. Poteva essere Little Prayer, che esatto, insomma, vabbè, si avvicina, diciamo. Ce lo sapevamo prima. Un grazie sentito a Richard, lo voglio dare anch'io, ci siamo sentiti spesso in questi giorni. Grazie della collaborazione, ovviamente. Grazie a voi, Wheels of Fire, di essere venuti qui, di aver aderito. Grazie a voi per lo spazio. Sì, sì. Vi aspettiamo con il disco nuovo. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Allora, ci salutiamo con che canzone? Allora, quella che doveva essere per me, per il mio... l'album di apertura del disco, poi non mi è andato di no. You're So Cool, comunque un pezzo bello rock per chiudere in allegria. Ok, quindi appuntamento alla prossima. Io vi do l'appuntamento giovedì prossimo, giro di parole, sempre qui con Vuoto Apparente, giusto? Sì, no, ti no, dico, aspetta, vediamo. Che mi sta sfuggendo il nome. Sì, Vuoto Apparente. Vuoto Apparente, sì, cioè, pan di zucchero, pan di zenzero. Pan di zenzero, pan di zenzero è il disco, il titolo del presentano disco. Presentano il disco nuovo. Esattamente. Salutiamo anche Gianluca, nostra enciclopedia vivente, stasera, come sempre. Ciao Gianluca, grazie ciao, anche Agostino, a te. Ciao Maurizio. Grazie alla prossima. Alla prossima, ovviamente. Ciao ragazzi. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Veneto come non l'hai mai sentito. Looking for a heart of gold, I'd rather feed myself with pleasure. People tell me you're too hard for me, but they only go so far. Just to look and let things go till the day you will fall. All I want is what you need, and all I want is you. You're so cool. Me, honey, I'm falling in love with you. can go on another day. Sex so damn easy with you. I need to feel your touch again. I wanna hear you say forever. Just to look and let things go. Till the day you will fall. Cause all I want is what you need. Come on, come on, come on. You're so cool when you do me, honey. You're so cool. I hear you calling my name. You're so cool. So cool when you please me, honey. About me running away.